90 è vivo. Come se ogni cosa sia scontata di arrivo. Credere di non avere un credo vivo. Però vivo bene, me ne frego e rido. Sputo sulle lotte di quelli che c'erano prima. Mi frega poco di fare politica attiva. L'unica protesta è per la prossima partita. Se perde il campionato la mia squadra preferita. Prendo la paghetta dalla zia. Seguo solo la mia scia. Freccio con la moto per la via. Impennare son messia. Un abbraccio io ti do. Ideali non ne ho. Martellute popo io proprio non lo so. La TV mi fa impazzire. Realini da seguire. La scuola può aspettare. Io voglio lavorare. Voglio fare il calciatore. Come il dell'attore. Questa è la mia vita. Mi sento un gladiatore. Vivo il mio tempo mo, senza ideali. Sto senza valori. E do peso più niente mo. Secolo 21 nell'anno decimo. No, non ha mente mo. Poco ci perderò. Vivo il mio tempo mo, senza ideali. Sto senza valori. E do peso più niente mo. Secolo 21 nell'anno decimo. No, non ha mente mo. Poco ci perderò. Ora cerco un pretesto. No, no, no. Io ti mando all'arresto. Faccio in vista di detesto. A me la storia non mi inganna. Se la leggo vada andando. Niente come nella stanza. In frigo tanta panna. Al zonzo ogni sera. C'ho profumo alla vela. Nella mia Mercedes nera. Ora compro una carrera. Yeah. Ma mi pari. Io vi rompo tutto quel che voglio. Sono un boy del 2000. Grido, grido, grido. Viva il mio tempo mo. Senza ideali. Sto senza valori. E tu pensa più niente mo. Secolo 21 nell'anno decimo. No, non ha mente mo. Vivo il mio tempo mo, senza ideali, sto senza valori e non pensa più niente mo. Secolo 21 nell'anno decimo. No, non ha mente mo, poco ci perderò. Non sono sicuro di tutto. Non sono sicuro del tutto. Non lo so se sono asciutto. Ma per mo mi faccio di brutto. Mi piace perdere tempo con la TV e con gli antidepressivi. Per cui strippi non perdo neanche un programma della De Filippi. Non mi interessa socialmente, sto fra quelli giri.